isole, con l'acrilico anticristo dissoluto la mia carne contrattualizzata. Non è ora d'origliare, ma l'angoscia resterà a lungo qui a tagliare le mie unghie. Immenso, com'è freddo questo immenso.